Nei mesi di giugno e luglio del 2007, in televisione è apparso uno slogan veramente singolare che recitava: uccidere è sempre sbagliato. A parte il fatto ogni nostro estremismo, per quanto motivato dal più grande e nobile sentimento, è sbagliato, uno slogan del genere è più pericoloso che benefico. Un animalista, per esempio, potrebbe essere subito d'accordo. I suoi principi, però, sono contraddittori perché, pur schierandosi contro l'omicidio di certi animali, lui stesso non esiterà a uccidere una fastidiosa zanzara che gli ronzi attorno in una calda estate. Se poi fosse così fermo nei suoi principi e non volesse uccidere nessun animale, allora non dovrebbe neppure camminare, perché senza ombra di dubbio facendolo potrebbe calpestarne alcuni come formiche o altro. Se invece lo slogan «uccidere sempre sbagliato» è riferito all'uomo, allora occorre fermarsi e riflettere seriamente, perché nella pratica nessuno la pensa così. Se così fosse in realtà, allora le forze dell'ordine non dovrebbero mai uccidere nessuno, neppure per legittima difesa. Se davvero uccidere fosse sbagliato, nel difendere la propria o l'altrui vita, poliziotti e carabinieri sarebbero colpevoli e punibili. E allora quale sarebbe la loro utilità? Sarebbero dei burattini, persone inutili e incapaci di dare sicurezza alla popolazione. Perciò, in barba agli slogan più o meno veritieri, a volte uccidere è necessario mentre altre volte diventa indispensabile, almeno per legittima difesa. Perché questa osservazione? Perché molte persone si scandalizzano quando leggono nella Bibbia, e precisamente nell'antico patto stabilito da Yahweh Dio con il popolo di Israele, l'ordine di uccidere e a volte di sterminare i popoli che abitavano nella terra di Canaan. Molti anni fa questo ordine non dava fastidio più di tanto, ma in quest'epoca, a cavallo tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI, è sorta un'insofferenza epidermica per qualsiasi omicidio, sia di animali sia di persone. E perché possiamo leggere la parola di Dio più serenamente, prendiamo in esame le ragioni che hanno spinto il Dio di Israele a decretare la pena di morte. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, dobbiamo premettere che occorre accettare che il Dio di amore rivelato nel nuovo patto è lo stesso che stipulò l'antico patto, altrimenti vi sarebbero due Dio, due divinità. Il messaggio d'amore di Gesù non è più morale della legge dell'antico patto. Questa premessa scaturisce dal fatto che Gesù ha più volte dichiarato di non esprimere nulla di suo, ma di riferire sempre le parole del Padre. GV 3:11, 32:33, 5:5, 36, 6:44, 8:26, 28, 38, 40, 55, 12, 49, 50, 14:10, 24. 15:15, 17, 7:9, 14. Se Dio è amore, perché allora ha ordinato al popolo di Israele di sterminare certe nazioni? Lo dice lui stesso nel libro del Deuteronomio, e cioè perché il loro comportamento era orrendo. Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti. Perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. Tu sarai integro davanti all'Eterno, il tuo Dio, poiché quelle nazioni, che tu scaccerai, hanno dato ascolto a indovini e a maghi. Ma, quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, non ha premesso che tu si faccia così. DT 19.9.14. Ecco dunque le pratiche di queste nazioni che Dio non tollerava. A. Bruciavano i bambini ancora vivi. B. Esercitavano la divinazione. C. Vi erano astrologi e coloro che predicevano il futuro. D. Vi erano maghi e negromanti. E. Vi era chi consultava gli spiriti. Qualcuno potrebbe giustamente considerare che in fondo molte di queste pratiche sono ancora oggi in essere presso tutte le popolazioni, e questo è vero, ma evidentemente il male non ha raggiunto proporzioni tali da indurre Dio a intervenire. Infatti le popolazioni al tempo della conquista della terra promessa da parte del popolo di Israele avevano raggiunto il culmine della loro iniquità, Geo 15:16. E come nel caso del diluvio, Dio intervenne per purificare l'umanità usando un popolo che avrebbe dovuto non compiere quelle pratiche. Così l'ordine di sterminare quelle popolazioni era un atto per tutelare non solo il popolo di Israele, ma anche il resto dell'umanità. In merito ricordiamo i giudizi descritti nel libro dell'Apocalisse, i quali saranno mandati da Dio sulla terra, quando l'iniquità degli uomini, che vediamo già in vistosa crescita, meno sarà al culmine. Dio ha solo cambiato il metodo, ma non il principio. Millenni di anni fa l'Eterno ha usato un popolo, ora interviene e interverrà direttamente. Molto probabilmente qualche nostalgico a favore della pace avrà una reazione di sdegno sia nei miei confronti sia nei confronti di un Dio giustiziere, e penserà con maggiore nostalgia al Dio di amore proclamato nel Nuovo Patto, da Gesù e dagli Apostoli. Ma ancora una volta i nostri sentimenti distorti ci portano lontano dalla verità, perché anche il Dio predicato da Gesù e dagli Apostoli non è meno giustiziere e vendicativo. Infatti, mentre da un lato il Nuovo Patto è pervaso dal messaggio d'amore da parte di Dio, non dimentica però la sua giustizia e non esita a parlare della sua collera. Alcune affermazioni della parola di Dio tolgono ogni dubbio. Gv 3:36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Rm 1:18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. Ef 5:6. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Dunque, anche se a noi non piace sentirlo dire, il Dio d'amore rivelato nel nuovo patto basato sul sangue di Cristo è un Dio che parla d'ira sia per chi rifiuta di credere che Cristo sia l'unica persona da adorare, servire, pregare, sia per chi si ribella all'opera che Dio vuole compiere nella sua vita. Non solo. Anche Gesù, che è venuto per salvare tutti gli uomini e riconciliarli con Dio, manifesterà la sua ira e farà vendetta degli increduli. 2 Teo 1:68. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Ap 6:16-17. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di chi può resistere? E per terminare questo quadro di un Dio trino giustiziere e vendicativo, la lettera agli ebrei è ancora più esplicita. Eb 10:29-31. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Dobbiamo riconoscere che quanto è grande l'amore di Dio, tanto è terribile la sua vendetta. Molti rimangono scandalizzati da Dio e dal Vangelo perché hanno un'immagine del Dio trino non corretta. E a volte la causa di questo errore è attribuibile a coloro che predicano la parola di Dio. Spesso ho sentito sostenere che nel versetto 16 del capitolo 3 dell'Evangelo di Giovanni si trova in sintesi tutto il messaggio di Dio. A mio avviso questo non è esatto. Esso infatti mette in evidenza solo un aspetto del messaggio di Dio, cioè l'amore. Per quanto mi è dato di conoscere, il versetto che contiene in maniera più completa il messaggio di Dio è l'ultimo dello stesso capitolo, cioè il versetto 36. Esso dichiara: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. In questa affermazione Gesù annuncia la salvezza, ma anche una perdizione scontata. Chi, nel predicare l'Evangelo, non annunzia l'amore di Dio e la sua decisione di sterminare tutti gli increduli, vizia il modo di afferrare il messaggio di Gesù. E, inevitabilmente, crea nella mente delle persone un'idea del Dio Trino che difficilmente potrà essere cambiata. Chiunque presenta l'Evangelo è responsabile di suscitare nelle persone una reale e totale conversione a Cristo. Purtroppo si predica il paradiso senza prima presentare l'inferno. Efe 2:3. Si annuncia la pace di Dio senza evidenziare prima una situazione di inimicizia, Gv 3:36. Si offrono le promesse di Dio senza prima chiarire che per natura siamo estranei a esse, Efe 2:12. Per questo il cristianesimo è scaduto da fede a religione, da cardine a ornamento, da salvezza a misera consolazione. Il cattolicesimo è forse il più grande ostacolo per una vera conversione dell'uomo a Cristo. Esso, insegnando agli uomini che diventano figli di Dio con il battesimo, ha cauterizzato nella coscienza della persona il senso della perdizione. Non hanno la disperazione della condanna e il timore dell'inferno. In definitiva, il cattolico dorme con la bomba della perdizione sotto il cuscino. E è vero che la religione cattolica in genere produce nella coscienza degli uomini il senso del peccato e la paura dell'inferno, ma in un modo puramente religioso, solo formale, e non nella prospettiva di Dio. Che a nessuno di noi accada di essere un impedimento ad una reale conversione del suo prossimo, perché sta scritto: «Maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino». De 27:18. E questa maledizione è la peggior cosa che possa capitare. Ottobre 2007. Ellero,